Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. La musica esprime ciò che è impossibile da dire e su cui è impossibile tacere. Chi diceva ciò? Victor Hugo. Brava mia cara Silvia, e perché abbiamo aperto questa puntata del Soundcheck di Radio 24 con questa citazione? Perché dobbiamo ospitare un grandissimo ospite nella seconda parte, che è il direttore generale dell'UNICEF, Paolo Rozera. È vero, sì, ogni anno qui al Soundcheck celebriamo questa nostra amicizia, l'amicizia che abbiamo con UNICEF, con i volontari di UNICEF Italia, e poi io lo devo dire, sono anche molto onorato di appartenere all'UNICEF come testimonial, e poi più tardi con Paolo Rozera racconteremo questa iniziativa, secondo me meravigliosa, che abbiamo chiamato Sounds for Children United Musicians per l'UNICEF. Quindi, fantastico. Sì, una bellissima iniziativa che ci porterà in giro intanto per le scuole italiane a raccontare la nostra passione per la musica, per raccontare la bellezza della musica al di là di farla o comunque di avere successo come artisti, raccontare i buoni sentimenti che la musica ha in sé. E i valori che la musica può trasmettere. E i valori della musica, certamente. Quindi puntata dedicata comunque ai bambini e dedicata all'UNICEF, perché, lo ricordo, nella seconda parte, dopo l'informazione degli eventi, Paolo Rozera, direttore generale UNICEF Italia, sarà qui con noi. Vogliamo dare il via alla musica? Pronti. Ecco, darei il via alla musica utilizzando una composizione presente nel repertorio di una band californiana molto intrigante e interessante chiamata Wolfpack. Conosci questi ragazzi? Io li ho ascoltati quando mi hai passato questo. No, guarda, io sono impazzito quando li ho scoperti. Fantastici. Un suono abbastanza sporco per una garage band che coniuga la passione per il soul dannata, il funk e vagamente pop rock, sì. Insomma c'è un po' di tutto, sì. Ma soprattutto c'è un grande senso dell'umorismo. È vero, infatti devo capire se sono dei cialtroni o se attraverso i loro video assolutamente simpaticissimi. No, però non sono dei cialtroni, perché suonano anche bene, è solo che l'umorismo è una componente veramente importante per loro. Tu pensa che hanno avuto si sono fatti notare alcuni anni fa perché hanno prodotto e realizzato un album intitolato Sleepify. Come Spotify, ma l'hanno intitolato Sleepify, ovvero un album che secondo loro poteva aiutare gli appassionati di musica ad addormentarsi. E mi chiederai, e quindi che cosa hanno registrato? Tutte ninne nanne. No, non hanno registrato nulla. Ci sono 10 tracce che non contengono nulla, tra l'altro con titoli improbabili, tipo una si intitola Zzz, la seconda Zzz, lo vedi? Tutto così, e non c'è un suono. Il silenzio totale, un concept album naturalmente provocatorio, che hanno venduto attraverso portali in internet incassando ben $20,000. Lo vedi? Fantastico. Fantastici, geniali. Geniali. Allora ascoltiamo Wolfpack con la partecipazione del vocalist Antoine Stanley in un brano intitolato 1612. E qui viene ancora una volta fuori il senso dell'umorismo, perché il testo non ha alcun senso. Parole in libertà, addirittura anche citano Frank Sinatra o altre cose, la Ford qualcosa, insomma, tutte le parole che gli vengono in mente, il vocalist Antoine Stanley. Meraviglioso, timbro. Bellissimo. Le cita e le canta molto bene. Ecco, visto quando uno dice canta talmente bene che può cantare anche l'elenco del telefono. Lui lo ha fatto. Lui l'ha fatto qui. Il più efficace e proficuo degli insegnamenti è rendere i bambini capaci di sentirsi liberi di esprimersi e comunicare. Mia cara Silvia, perché ricordiamo i bambini? Perché nella seconda parte del Soundcheck di oggi Paolo Rozera, direttore generale di UNICEF Italia, sarà nostro ospite. E fra le pubblicazioni in arrivo c'è quella che vede protagonista questo ragazzo inglese, che ormai ha superato i 20 anni, ma 21, sì, ma era già attivo quando ne aveva 15-16, un sì, polistrumentista eccezionale. Lo abbiamo più volte chiamato in causa, questo formidabile Jacob Collier, che ha approdato alla corte di Quincy Jones. Fra pochissimo sarà pubblicato il suo album realizzato nella sua cameretta. E allora, prima di presentarvi le recenti pubblicazioni che anticipano questa pubblicazione, gioco di parole, scusatemi, ripetizione, direi di riascoltare la sua versione di Close to You di Burt Bacharach, che non è male. Beh, molto bravo, lui è il classico caso in cui si dice se la suona e se la canta da solo nella sua cameretta, suona tutti gli strumenti, pubblica i suoi video che fa lui stesso, li mette su YouTube e è diventato in brevissimo tempo davvero un YouTuber davvero molto conosciuto. Un fenomeno. E come suona e come canta Jacob Collier al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. E naturalmente il giovane Jacob Collier, col suo infinito talento, celebra Quincy Jones con P.Y.T., approdando quindi alla sua corte. L'album sarà pubblicato il 1° luglio e intitolato In My Room, giustamente perché l'ha prodotto tutto nella sua stanzetta con tutti gli strumenti. Onesto. Onesto, sì. In My Room. Onesto, né certo, più né meno. Certo che Quincy Jones è un gran furbacchione, eh? Continua non a individuare talenti, perché oramai Jacob Collier lo conoscevano tutti. Sì, è vero, no? Apprezzato da tutti, da Stevie Wonder a Herbie Hancock, Chick Corea. Però Quincy Jones, direttore artistico del Montreux Jazz Festival, lo ha invitato un paio di anni fa a esibirsi, e lì poi sono nate delle cose, è nata questa collaborazione. Tra l'altro ha detto: non ho mai visto un talento come questo, quindi un grande sponsor, devo dire. Sì, addirittura infinita la creatività di Jacob Collier, e ve ne accorgerete ascoltando quest'altro singolo che troverete nel disco In My Room. Il brano si intitola Hideaway e questo mi ha veramente scioccato. È una sua composizione, il brano non ha soluzioni. Nel senso, una quantità di idee per un arrangiamento che sembra non finire mai. È talentuoso il ragazzo. Troppo? Forse? Forse. A me fa un po' paura. Mi fa paura. Ti dico la verità. A me fanno paura Jacob Collier e Speranza Spalding. Anche quello, il disco nuovo. Esatto. Bravo. Niente, insomma, di idee ce ne sono. Ascoltiamo Jacob Collier, Hideaway, in attesa di Paolo Rozzera, direttore generale di UNICEF Italia. Soundcheck. Il suono della musica. E tornano al soundcheck di Radio 24 i Native Dancer, gli inglesi che abbiamo conosciuto praticamente nella passata stagione, che abbiamo intervistato con Francesco Tromba e che mi hanno appena spedito questo nuovo EP dal quale abbiamo ascoltato Big Blue. Molto interessanti. Molto interessanti, ma io non li ho potuti ascoltare perché queste chicche le hai solo tu. Ecco, ma te li sto presentando adesso. Grazie. Cosa che facciamo anche agli appassionati di musica di Radio 24, in attesa di ospitare qui al soundcheck Paolo Rozzera, direttore generale di UNICEF Italia. Sono particolarmente emozionato. Si vede. Sì, anche perché questa sera racconteremo di Sounds for Children, un progetto che mi sta molto a cuore. E di quanto sia importante la musica per i bambini, certamente, e per gli adolescenti. Certamente, anche perché stilando proprio il progetto abbiamo individuato il perché, ecco, cosa ci ha animato nella costruzione di Sounds for Children, perché la musica educa ad individuare il proprio spazio nel rispetto di quello dell'altro e anche la propensione a fare gruppo, laddove ognuno sviluppa e propone la propria personalità, ma anche la voglia di essere non solo individuo ma parte di un insieme, dove l'affermazione personale è l'affermazione del gruppo, l'insuccesso di uno, l'insuccesso di tutti. Ecco che cosa significa fare musica, ed è quello che noi faremo con i bambini dell'UNICEF prestissimo. Native Dancer chiudono la prima parte del soundcheck di Radio 24, prima dell'informazione, con Seven of Swords, brano che non troverete perché solo tu, solo noi, solo tu, ecco, puoi. Vedi, mi sono trasformato in un pavone in questo momento. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eccoci dal Groove Master Studio dopo l'informazione di Radio 24 per la seconda parte del soundcheck, la prova del suono. felice di dare il benvenuto per la prima volta nel Groovemaster Studio al direttore generale di Unicef Italia, Paolo Rozera. Benvenuto, è un piacere averti con noi. Grazie Gigi, sono io che sono strafelice di essere qui e ti ringrazio per l'invito. Allora Paolo, noi abbiamo già raccontato più volte l'attività di Unicef nel nostro programma, lo abbiamo fatto nelle passate stagioni, lo abbiamo fatto anche nella prima parte della nostra trasmissione con la nostra Silvia Barba. È un piacere per me averti con noi per parlare non solo dei 2 miliardi di bambini che Unicef rappresenta e tutela, ma soprattutto per farmi raccontare anche la tua storia. Qual è la tua storia? Come sei arrivato a Unicef? Io sono arrivato a Unicef 25 anni fa. Ero uno studente di scienze politiche, indirizzo internazionale, e dovevo fare una tesi su un paese africano, sull'Uganda, e mi rivolsi all'Unicef proprio per cercare materiale e avere informazioni riguardo ad alcuni progetti che l'Unicef faceva in Uganda 25 anni fa. Da lì è nato un amore, anzi mi sono avvicinato all'Unicef come penso molti ragazzi di quell'età, di quel periodo molto critico nei confronti delle Nazioni Unite, del sistema Nazioni Unite e di come funzionavano. In realtà sono partito così e poi è nato veramente un grande amore, perché ho scoperto come lavora l'Unicef e adesso ovviamente sono stati 25 anni pieni di orgoglio e di felicità di starci dentro. Ecco, dopo 25 anni sei stato nominato, ormai che sono un paio di stagioni, da un anno sei direttore generale di Unicef Italia, una grande responsabilità. Esattamente qual è il tuo compito, qual è il tuo lavoro per Unicef? Grandissima responsabilità, il mio compito è di gestire tutto quanto lo staff, il nostro l'ufficio, ma soprattutto rappresentare i nostri volontari. Noi abbiamo 4.000 volontari in tutta Italia e sono loro che sono a mio avviso il cuore pulsante della nostra organizzazione, e il mio compito è quello di gestire un po' tutto insieme ovviamente ai miei colleghi e avere le relazioni con i donatori italiani, che sono tanti, sono veramente tanti, stiamo quasi raggiungendo i 300.000 donatori. Ecco, noi non solo sosteniamo Unicef, ma io ho anche l'onore di essere diventato da poco più di un anno anche testimonial per voi per alcune iniziative, e se oggi sei nostro ospite in un programma di musica è anche per capire quanto può essere importante la musica per Unicef e per i vostri bambini. La musica è fondamentale, la musica, io credo che possiamo paragonare la musica, a mio avviso, all'ossigeno, è qualcosa di cui abbiamo estremamente bisogno, è qualcosa che è estremamente efficace, e quando uno si dice che sta male, no? In carenza di ossigeno. La musica è molto utilizzata anche dall'Unicef in quei paesi dove i bambini soffrono situazioni incredibili per noi. Ho visto l'Unicef sul campo operare e utilizzare la musica per aiutare i bambini a uscire da situazioni di forte depressione dovute a fuga dalla guerra e ritrovare una parola che è quella fondamentale per far loro pensare a un futuro possibile, che è speranza. Ecco, noi stiamo collaborando, lo racconto anche alla nostra Silvia, con Paolo e con Unicef Italia sulla realizzazione di un progetto anche ambizioso che mi vede protagonista, o perlomeno in prima linea, perché è un progetto, lo possiamo dire Paolo? No, possiamo anticiparlo, perché noi a questo punto abbiamo bisogno anche di alleati fra gli artisti, i musicisti, gente attiva che possa collaborare con noi, un progetto che abbiamo chiamato Sounds for Children, ovvero il suono per i bambini, non delle lezioni di musica, ma andare in giro per il mondo, soprattutto in situazioni di grande disagio, a far capire a certi bambini, a far capire soprattutto agli adulti quanto può essere importante la musica per riportare sicuramente il sorriso. E tu sarai una dei nostri. Con molto piacere e con molta anche responsabilità, visto che gli artisti in questo senso devono sentire questo impegno, e a questo proposito volevo appunto chiedere cosa possiamo fare noi piccoli artisti, oltre ai grandi testimonial, ai grandi ambasciatori in giro per il mondo. Ciò che fa grande o piccolo un testimonial è quello che lui fa per i bambini, non dipende da quanto è noto o famoso o altro. È importante quello che fa. I musicisti possono fare veramente tanto, ripeto, l'ho visto, lo sapete voi meglio di me, la musica è un veicolo straordinario e come tale va utilizzato, e lo possiamo utilizzare anche in Italia. Holding On, Gregory Porter torna con la sua musica, nuovo album per lui qui al Soundcheck di Radio 24. Weight of love on my shoulders. Soundcheck, il suono della musica. Donny Trumpet con The Social Experiment, la partecipazione di Chance the Rapper in un brano molto solare scelto per questo appuntamento. Si intitola Sunday Candy con la partecipazione di Jamila Hoods, dicevo brano solare proprio per avvicinare il più possibile anche alla nostra musica i bambini. Oggi parliamo dei bambini, i bambini sono protagonisti perché il nostro ospite è Paolo Rozera, direttore generale di UNICEF Italia. Quanto sono generosi e sensibili nei confronti dei bambini gli italiani, Paolo? Sono molto molto generosi, sono sempre molto attenti. Il donatore italiano è molto critico, molto attento, vuole capire come i soldi sono utilizzati, dove vanno, quanti sono utilizzati direttamente per il progetto e quanti vanno invece alla struttura che deve gestire quel progetto. Dovete pensare che nel 2015, che si è appena concluso, un anno che ancora vede l'Italia nelle pastoie di una crisi dove sembra che stiamo per uscire ma ancora non ne siamo usciti, le donazioni all'UNICEF sono cresciute ed è più dell'11%. Significa che i donatori italiani, nonostante vivano ancora delle difficoltà economiche, pensano che sia sempre importante aiutare chi sta peggio di noi. Ecco, ricordiamo che esistono grandi e piccoli donatori, ma i piccoli donatori sono quelli che proprio ci mettono del loro proprio per essere vicini ai bambini, insomma i piccoli risparmiatori. Hanno un valore enorme, un valore umano eccezionale. Mi ricordo una volta ero in piazza, noi facciamo questa manifestazione, l'abbiamo appena fatta il 30 aprile, 1 maggio, di stare con le orchidee in piazza per raccogliere donazioni. Mi ricordo una volta dove io stavo in una piazza, facevo il volontario, stavo lì a dare le orchidee, un anziano che ha tirato fuori 5 euro, poca roba, ha detto: io sono un pensionato, ho solo questo, ma ci tengo a darlo a voi. E ovviamente la commozione è stata enorme. E a proposito di questa cosa, sul sito unicef.it voglio ricordare che ci sono davvero tantissimi modi per donare: online, diventando amici dell'UNICEF, regalando, appunto, regali per la vita, donando il 5 per 1000, insomma non si hanno scuse, nel senso che se si vuole anche con una piccola parte si può fare il proprio, si può aiutare in questo modo l'UNICEF davvero fondamentalmente, perché poi alla fine appunto i piccoli donatori sono quelli che rendono tutto più possibile. Ecco, e poi non bisogna aspettare le emergenze, no? Perché siamo sempre spinti a fare le nostre donazioni, a essere vicino alle grandi e piccole organizzazioni umanitarie quando ci sono le catastrofi, i terremoti, gli tsunami. Invece nei confronti dei bambini l'emergenza è continua. È sempre l'emergenza. Se voi pensate che ogni giorno muoiono 16.000 bambini sotto i 5 anni di età per dei motivi che noi consideriamo ormai futili: il morbillo, il tetano, per tosse, la diarrea. Quindi questa è un'emergenza continua. Jill Scott al soundcheck di Radio 24. Can you hear me? Soundcheck, il suono della musica. La voce di Alan Hampton con tutta la sua passione in questo brano intitolato Next, dal progetto Fans Lowride, International Collective of Music Travelers, qui al Soundcheck di Radio 24 con Paolo Rozera, nostro ospite, direttore generale di UNICEF Italia. È vicino alla musica perché intanto sei un appassionato di musica anche tu, no? Sì. E poi credo che tu ti stia anche divertendo con l'UNICEF a ideare, progettare grandi e piccole manifestazioni coinvolgendo grandi e piccoli artisti, perché poi lo abbiamo detto, sono tutti importanti. Sì, volevo raccontarvi di questo progetto che ho visto in Libano quando sono andato a visitare. Il Libano è un paese che accoglie circa 1 milione di rifugiati, per lo più provenienti dalla Siria. Sono riconosciuti non informalmente, quindi hanno degli insediamenti informali. In questi insediamenti, tra queste baracche, che sono vere e proprie baracche, a un certo punto trovo uno spiazzo, che è uno spiazzo, diciamo, UNICEF, dove ci sono varie tende con varie attività. E una di queste attività, e sono rimasto contento e sbalordito, era quello di un maestro di musica siriano, quindi anche lui rifugiato, che insegnava agli altri bambini siriani che erano ospiti di questi insediamenti informali, insegnava nuova musica, nuova canzone. In più era il periodo di dicembre quando sono andato, per cui stavano preparando anche uno spettacolo su un palco, uno spettacolo di Natale. E mi hanno spiegato gli operatori che lì la musica viene utilizzata proprio per far scordare a questi ragazzi che una buona parte di loro ha vissuto almeno 5 anni della guerra in Siria, considerate che siamo entrati nel 6° anno, e sono abituati, tra l'altro, oramai a odiarsi tra una città e l'altra della Siria. Mm. Quelli di Aleppo odiano quelli di Damasco e così via, e Daesh e così via. E il tema è la musica che fa riscoprire le loro origini comuni, le loro radici comuni, gli fa capire che sono tutti membri dello stesso popolo della Siria. Sì, poi si appartiene così alla tribù degli appassionati di musica, alla tribù dei musicisti, perché noi lo diciamo sempre anche qui al Soundcheck, la musica batte le frontiere, insomma puoi appartenere a gruppi etnici diversi, avere un credo religioso diverso, però poi quando si fa musica per socializzare. È un linguaggio universale, comprensibile davvero dai più piccoli a quelli più grandi, anzi forse i più piccoli lo capiscono ancora meglio. E un po' di tempo fa, proprio pensando ai bambini e all'UNICEF, fra i brani inseriti in questa produzione intitolata Fun Slow Ride, abbiamo scritto un bellissimo testo insieme al mio amico Ben Sidran per questa composizione intitolata Let the Children, brano ispirato a quel bellissimo passo scritto da Khalil Gibran che si trova nel Profeta, quindi che parla proprio dei figli che sono i nostri figli ma devono essere lasciati liberi per fare le loro esperienze e la loro vita. E naturalmente il tutto è stato dedicato all'UNICEF e anche con la complicità dell'UNICEF, perché i vostri fotografi, che sono dei reporter eccezionali di immagini bellissime, ci hanno dato la possibilità, ci hanno autorizzato all'utilizzo per il clip, la clip di immagini veramente belle. Quindi io intanto ti ringrazio per avermi dato la possibilità di collaborare con voi e di realizzare una cosa che mi sta molto a cuore. Sono io che ringrazio te a nome dell'UNICEF, perché è un brano visionario. Siamo in un mondo dove i bambini non fanno altro che subire gli adulti. Allora, una canzone che riprende le parole del poeta Khalil Gibran e dice lasciateli andare i bambini, rispetto a quello che invece gli facciamo oggi come adulti, che invece li vessiamo in qualsiasi modo possibile. È veramente un brano visionario, quindi siamo noi che ringraziamo te. Sì, e io saluto e ringrazio per il bellissimo lavoro anche il nostro giovane regista Simone Calcagni, che ha avuto la pazienza di realizzare la clip che troverete su YouTube nella pagina di Fun Slow Ride, ma direi proprio se ti fa piacere ascoltiamo il come brano. No, Let no. The Children, la voce narrante è quella di Ben Sidran, poi Joy Dragland e il giovane talento italiano Aine. Let The Children, Fun Slow Ride al Soundcheck. We all arrive through the gate of our dreams. Soundcheck, il suono della musica. Il sax tenore di Terrace Martin, nuovo album per lui intitolato Velvet Portraits, quasi a chiudere questo appuntamento del Soundcheck. Io voglio ringraziare Paolo Rozera per la partecipazione, tantissimi gli impegni per il direttore generale di UNICEF Italia, sempre sul campo, anzi mia cara Silvia me l'ho anche detto, prepara la borsa perché presto partiremo insieme. Dove mi vuoi portare? Vorrei con te andare in Libano, andare a ritrovare quei ragazzi che stanno utilizzando la musica per ritrovare speranza, fiducia in se stessi e fiducia nel futuro e soprattutto fiducia negli adulti. Ecco, gli strumenti me li devo portare o utilizziamo quelli che troviamo in loco? Uno come te è bravissimo a suonare con qualsiasi cosa, quindi quello che troviamo. Intanto grazie per la fiducia, però insomma sarà un'esperienza bellissima che poi dall'incontro con culture diverse, quindi spero di incontrare colleghi autoctoni, possiamo sul serio dire la nostra e dare una bella mano ai bambini e al loro umore. Altro che jam session, eh? No, quelle sono le vere jam session e siamo anche pronti per portare il nostro progetto Sounds for Children ancora in fase sperimentale, dopo aver incontrato bambini meravigliosi nella scuola Gandhi a San Basilio qui a Roma, siamo pronti anche per andare in Sicilia. Sì. Perché in Sicilia? Perché lì è una terra di grande accoglienza, in particolare dei minori non accompagnati, ci sono vari centri dove questi ragazzi sono accolti e questi ragazzi, come altri, hanno bisogno della musica proprio per ritrovare speranza e fiducia nelle persone e sono di nazionalità diversa, e la musica lì deve avere lo stesso scopo, quello di far sentirli tutti esseri umani. Ecco, poi in Sicilia abbiamo tanti amici, colleghi, musicisti meravigliosi, c'è un grandissimo fermento da anni in quella bellissima regione, quindi coinvolgeremo senz'altro tutti. Musicisti, colleghi, cantanti per partecipare a questa grande festa per i bambini. Allora, dona il tuo 5 per 1000, lo faremo anche noi, lo abbiamo detto, e noi siamo quasi pronti per i saluti, mia cara Silvia. Se non fosse, forse c'è una cosa che stavo dimenticando, c'è un grande concerto. Sì, dobbiamo ricordare che l'8 agosto saremo all'Arena di Verona, grazie alla Gioganna Production di Gioganna, per fare un concerto dove ci sono tutti i cantanti che hanno scritto canzoni per i bambini, che hanno dimostrato sensibilità nei confronti dei bambini. Mm. E ovviamente ci sarai anche tu. Certamente, porteremo anche Silvia. Il cast lo racconteremo fra qualche settimana, perché si sta completando in questi giorni. Quindi io voglio solo salutarti, ringraziarti per avermi dato l'opportunità di collaborare con UNICEF, di essere vostro testimonial. Per me è un grande onore e un grande piacere. Il piacere è tutto nostro, GG, grazie molto. Grazie a Paolo Rozera e all'UNICEF, grazie a Silvia Barba. E noi ci risentiamo domani a partire dalle 19:15 per il soundcheck della domenica, quello più jazz. Quindi a tutti voi buona serata. Buona serata a tutti.